L'8 e il 9 marzo sono due giornate di lotta per il movimento femminista e transfemminista, non una di meno. L'idea è stata quella di avere appunto un 8 di lotta, che essendo una domenica avrebbe reso difficile la creazione di uno sciopero diffuso, e invece il 9 sarà un 9 di sciopero e di mobilitazione col corteo. Per quanto riguarda gli orari, l'una di meno sarà in Piazza Maggiore domenica 8 da mezzogiorno e 30 con un pranzo di sfamiglia a cui seguiranno altri momenti politici. Dopodiché ci vediamo il giorno dopo dalle 9:30, quindi dall'inizio dello sciopero produttivo, con una piazza che come gli altri anni verrà significata e attraversata dalle varie realtà transfemministe e femministe del territorio bolognese. Ci saranno, come l'anno scorso, dei laboratori, ci sarà uno spazio bimbo e ci sarà la possibilità, attraverso il microfono aperto, di portare le proprie esperienze di lotta. Dopodiché nel pomeriggio, quindi dalle 4, abbiamo concentramento sempre in Strada Maggiore, da cui poi partirà un corteo che si concluderà in Piazza Lucio Dalla. Per quanto riguarda il percorso, rimando al post Instagram, ma tendenzialmente l'idea è quella di passare da Piazza Maggiore a via Ugo Bassi, poi via Marconi, passando per la stazione, e dopodiché prendersi i viali, attraversare Ponte Stalingrado e da lì dirigersi verso la Bolognina. Quindi questo è un po' quello che ci si aspetta. È il 10° anno di Non Una di Meno, perciò ci aspettiamo anche un'ampia partecipazione a entrambi i momenti, a entrambe le giornate. Come 10° anno cercheremo in parte anche di andare oltre la ritualità. Sicuramente siamo convinte che per quanto riguarda la lotta al patriarcato ci sia ancora tantissimo da fare. Non è sicuramente una di quelle lotte che ha perso il proprio valore. Per quanto la situazione e il contesto attuale sia sicuramente diverso anche in termini geopolitici da 10 anni fa, quello che stiamo vedendo è che le strutture che mantengono questo tipo di dominio e questo tipo di potere sono invece inalterate. Ed essendo il nostro un discorso sistemico, sappiamo bene che finché non ci sarà appunto questo cambiamento sistemico, anche il patriarcato resterà intatto e continuerà ad avere un impatto sulle nostre vite. Noi però pensiamo anche che attraverso la lotta, l'organizzazione della rabbia, sia possibile sfidare questa visione che ci vede inermi. Possiamo cambiare un sacco di cose e proveremo a farlo insieme con la lotta transfemminista.